sottofondo frasi ferme, facce da caffè. Ti do quel che vedo in cambio, dimmi che cos'è che può farmi urlare ancora. Silenzi ormai voluti, c'è chi parlerà, ma per dire cosa avrebbe fatto alla sua età. Si risiede fra i silenzi e dimmi chi sarà che potrà farlo urlare ancora. Occhi asciutti, aria che non è, sottofondo frasi ferme, facce da caffè. Ti do quel che vedo in cambio, dimmi che cos'è che può farci urlare ancora. Mangiavano